vita mia tu, per me il canto del mio cuore, perché mi hai dato la felicità. Oh Cristo, sei tutto per me. Tu per me il grande amore, tu per me la vita mia, tu per me il canto del mio cuore, perché mi hai dato la felicità. Oh Cristo, sei tutto per me. So che sei lassù, però anche nel mio cuore. Per questo è che tu sei per me la vita mia, sei Gesù. Sei lassù, oh Cristo, so che sei lassù, però anche nel mio cuore. Per questo è che tu sei per me la vita mia. Amore, tu per me la vita mia, tu per me il canto del mio cuore, perché mi hai dato la felicità. Oh Cristo, sei tutto per me. Sei lassù, oh Cristo, so che sei su, però anche nel mio cuore. Per questo è che tu sei per me la vita mia, sei Gesù.